You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati in studio con Valentina Furlanetto a questa seconda parte di Indovina chi viene a cena. Come sentite in sottofondo ancora una volta una versione della canzone che accompagna, che è fatto da colonna sonora al film Indovina chi viene a cena, che negli anni è stata riproposta da diversi cantanti in diverse versioni e noi abbiamo deciso di farvene ascoltare alcune. Stiamo parlando con Eleni Porfiriu, ricercatrice di origine greca ma da molti anni in Italia, dove lavora al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, praticamente l'istituzione più importante per quanto riguarda la ricerca in Italia. E torniamo proprio alla Grecia, dalla quale lei è partita ormai parecchi anni fa. Cosa le hanno detto nel suo paese, a casa sua, in famiglia, quando è partita per l'Italia? Per i miei non c'era un problema, per di più raggiungevo mio fratello che già insegnava in Inghilterra, quindi il desiderio dei miei era semplicemente di darmi una migliore educazione. Quindi quando è arrivato da un anno è diventato un secondo, e dopo un dottorato, e dopo ho conosciuto il ragazzo giusto per me, ma credo proprio che vado a vivere con lui, era tutto tranquillo, tranquillo nel senso naturale. Immagino che torni spesso in Grecia. Quasi ogni mese. No, dei miei genitori ovviamente sono anziani, quindi il minimo che posso fare è andare più presto, più spesso che posso. Ένα κόσμο να γεμίζει από πόμπες και μικρά παιδιά να παίζουν μέσα σε κατακόμπες. Τα σου λίγο γιατί είναι λεπτό αυτό το θέμα. Είδα κι άλλα παιδιά που τα πνιγμένα μες στο αίμα. Είδα να κόβουνε το γιάν απ' την δισκογραφία. Για το καλό μου είπανε πως ήταν η αιτία. Είδα να σκοτώνουνε τον έρωτα χωρίς εδώ. Τώρα τον πουλάνε στα περίπτερα 2 ευρώ. Είδα μια τεράστια πλεκτάνη και μια παγίδα υπό την αιγίδα κάποιου. Ecco, qual è la sua visione della Grecia? Ormai si parla della Grecia solo per l'economia, oppure per la situazione difficile dell'economia, oppure per Alba Dorata o questo tipo di preoccupazioni? Sono enfatizzate troppo dal giornalismo italiano? Credo che l'informazione rispetto alla Grecia è parziale, è sempre stata, o quando ero più giovane, più passionale, mi arrabbiavo e scrivevo anch'io dopo nei giornali per dire che non si fa così, non si deve dire questo piuttosto che l'altro, quindi questa è la vera cosa. Qual è la cosa che le dà più fastidio che ha letto in questi mesi, in questi anni sulla Grecia? Credo proprio la parzialità aveva a che fare con la questione della... Prima si prende una decisione dall'Italia o dalla Germania o comunque da parte dell'Europa di qual è il problema greco e dopo si va a informarsi sul problema greco. Quindi è ovvio... C'è un pregiudizio. Sì, mettiamolo in questi termini. In questa fase l'Europa e nello specifico gli italiani hanno la coda di paglia di aver premuto molto sulla... premuto molto, cioè aver richiesto molto dai greci, va bene? Sì. Ovviamente tutti se lo sono ricordati, compreso i tedeschi, un po' in ritardo. E quindi a questo punto tutti guardano già la Grecia con un occhio benevolo. Questo è un pregiudizio, ma non si chiamerebbe tale perché non ha, capisce il senso negativo, sì, e positivo che diamo al pregiudizio. Sì. Cioè, secondo me, come capita spessissimo, si formano le opinioni perché secondo me i greci sono veramente profondamente divisi. Non sono assolutamente, sono tutti preoccupati dell'alba dorata, su questo non c'è dubbio, però al tempo stesso il vero problema greco non è l'alba dorata, perché la Grecia ha vissuto sempre con un pezzo della Grecia che aveva dentro di sé un nucleo fascista. Perché abbiamo avuto il colonnello, perché certo. Il 39-36 c'era la precedente, cioè è un coup d'état, accompagnava l'altro, ai tempi della democrazia, se uno li somma quelli del, chiamiamo fascismo, la dittatura, perché non è fascismo, e sono metà dittatura e metà democrazia, quindi non è quella la vera, credo, preoccupazione greca, la vera preoccupazione greca è dove vuole andare il paese, di quale paese parliamo, cioè il greco ha un problema, come in parte ce l'ha anche l'italiano, di riconoscersi nello Stato. E questa è la vera cosa, e per questo spesso i greci si riconoscono con gli italiani con una faccia, una razza. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράζει. Η παίζα είναι ρικονοσίμπηλε. Σε πένσα και με λιάνει οτάντα και συντάβα per scontato che eri ortodosso. Può capire proprio quanto parliamo di un paese monolitico nel senso omogeneo, mettiamolo in termini positivi, va bene? Mm-hmm. Omogeneo, cioè i greci erano tutti ortodossi, essere greco significava essere, vivere in quel territorio significava ortodossia. Come gli italiani per il cattolicesimo. Entro certi limiti voi avevate anche qualcuno che non fosse cattolico, però comunque il cattolicesimo è un così ampio sistema religioso, cioè nel senso occupa altri territori oltre a quello italiano, sì. Mentre per l'ortodossia non c'erano molti altri spazi geograficamente parlando. L'immigrazione è aumentata di un terzo la popolazione, mettiamolo in questi termini per essere chiari. Cioè il mio quartiere non esiste più, è un quartiere nero. E io sono andata via 30 anni fa, quando mia figlia l'ho portata già nei primi anni, quindi proprio dopo 10 anni supponiamo, quindi 20 anni fa, in Grecia, piccolina, eccetera, nel parco giochi non erano più bambini greci. Ora, questo io non voglio con questa frase dire, insinuare concetti razzisti, voglio solo dire che un paese che era omogeneo si è trovato a fare i conti con una situazione multiculturale che non era assolutamente familiare. E questa realtà greca è nata sia per errori, se vogliamo, interni, nel senso non puoi aprire a un popolo che non ha le risorse economiche come è stato fatto nell'80, primi anni 90, e non puoi aprire agli albanesi il confine così all'improvviso con l'arrivo di 1,5 milioni di albanesi. Non avrai le risorse per assorbire questa popolazione e infatti non sono stati assorbiti. Questo tipo, quindi, quando lei dice, se si parla oggi di immigrazione, del permesso di essere accettati, sono 20 anni che i greci vivono con senza nessuna discussione da nessuna parte su come va affrontato il problema, semplicemente con flussi continui di immigrati, ma importanti. Quindi hanno subito un flusso forte di immigrazione. Importanti. Che ha trasformato inevitabilmente il paese, ha creato immagino anche delle tensioni. Assolutamente, assolutamente. Anche per la situazione economica, come diceva. Economica, ma anche sociale, ma anche proprio di un razzismo. Cioè, no, l'alba dorata non nasce per la crisi. La crisi è l'ultima goccia che fa riempire un bicchiere che era pieno, perché la gente ovviamente vede non solo entro certi limiti i lavori che vanno, ma vede una appunto, quando parlavo di quartieri, significa proprio una trasformazione. È una ghettizzazione di quartieri che non dovevano, cioè nessuno, io non ho niente contro gli stranieri, sono una straniera io stessa, non è quello il punto. E quando non dai le risorse, non hai un background, non hai lo spazio, la possibilità per accettare, per accogliere, per permettere dare spazio a un'integrazione, a un'assimilazione, non so. Quindi assistiamo anche a episodi di xenofobia, di situazioni del genere create da questa... sì, ogni anno che vado, cioè quando prima ancora dell'apertura della crisi, apertura nel senso proprio gli ultimi dieci anni, non sono gli ultimi cinque, sono da 10 anni che la situazione si sentiva e che cominciava a non essere buona. E quei tempi il ministro stesso aveva detto ai greci che non dovevano stare nei balconi, visto che d'estate fa molto caldo, la gente, cioè tutte le case greche, se va a notare, particolarmente ad Atene, sono fatte con balconi, non dovevano stare nei balconi perché di là entravano i ladri, dovevano stare dentro. Questa era la maniera con la quale il ministero affrontava la questione di un'immigrazione che era diventata criminalità. Tornando a temi più leggeri, perché poi la nostra trasmissione è proprio così, vaga da temi un po' più, così, più profondi, ha anche la leggerezza di parlare della propria identità attraverso la cultura, il cibo, i ricordi. Lei diceva che va spesso in Grecia, vista dalla Grecia l'Italia com'è invece? Ora hanno cambiato, però fino a qualche settimana fa, fino a qualche anno fa tutto era Berlusconi, cioè la prima cosa che ti dicono era la parola chiave, questo ovviamente anche ad Assuanda, dove venivo, dove sono tornata ieri. Cioè un po' come in Italia, insomma, dominava il tema Berlusconi, all'estero come in Italia. Quindi proprio questo era il primo commento. Lei cucina a casa greco o italiano, tornando al nostro punto di partenza? Io ho innanzitutto un marito che cucina benissimo, quindi proprio approfitto per mangiare bene, cucina regionale, eccetera, quindi proprio italiana. E ovviamente ci sono certi piatti che in Italia si fanno diversamente, come la zuppa di ceci, per esempio, di fagioli, che sono piatti anche piuttosto nazionali, o il pollo al forno, non so. Che si fanno in Grecia, ma che in Italia si fanno diversamente. Sì. Anche qui una faccia, una razza, un piatto e un piatto simile molto spesso, no? Usiamo gli stessi ingredienti. Sì, sì, però che basta un po' di limone nella zuppa di ceci per far cambiare tutto l'aspetto e anche il sapore. Grazie di essere stata con noi questa sera. Buona serata. Grazie di nuovo, arrivederci. Fagiolini alla greca. Ingredienti. 500 g di fagiolini, una cipolla, uno spicchio d'aglio, salsa di pomodoro 150 g, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta. Come prima cosa è importante pulire con cura i fagiolini, togliendo eventuali parti non commestibili. Lavate con cura sotto acqua corrente in modo da eliminare residui di terra e lasciateli sgocciolare ben puliti. Mondate aglio e cipolla e tritateli fini. Versate i fagiolini in una casseruola. Mixate la polpa di pomodoro con aglio, cipolla, dell'olio extravergine di oliva e dell'acqua. Aggiungete il composto realizzato ai fagiolini in una casseruola e girate moderatamente. A questo punto aggiungete del sale, un pizzico di pepe e fate bollire a fuoco medio. Mescolate con un cucchiaio di legno e lasciate a fuoco basso per una quarantina di minuti. Una volta asciugato ed evaporato in parte il liquido in eccesso, controllate la cottura dei fagiolini e impiattate ancora caldi. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Prima di lasciarvi, mi fa piacere lanciare un'iniziativa che parte da Napoli e dalla Campania, ma che potrebbe contagiare un po' tutta Italia. Il 10 di dicembre è la giornata del caffè sospeso. Di cosa si tratta? Di un'iniziativa, appunto, una tradizione campana che consiste nell'andare in un bar, chiedere un caffè per noi stessi o un'altra cosa che vogliamo prendere al bar e chiedere anche un caffè sospeso, pagarlo, ma non prenderlo, appunto, lasciarlo in sospeso per qualcuno che arriverà e che magari non si può permettere un caffè. Questa è un'iniziativa, una tradizione napoletana che è stato deciso da alcune associazioni di lanciare un po' in tutta Italia. È una forma di solidarietà molto semplice che però può venire incontro a molte persone che in questo momento non hanno disponibilità economica e che io trovo particolarmente simpatica. Quindi lanciamo in tutte le città d'Italia Italia il caffè sospeso, fatemi sapere se attecchisce. Andate in un bar, ordinate due caffè, uno per voi, uno per qualcun altro, oppure entrate in un bar e chiedete: c'è un caffè sospeso per caso? Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette e le storie nella pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, a tavola come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.